giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Famiglie, diritto allo studio, le misure della regione illustrate a Trieste, il quadro complessivo dall'assessora Rosolen. Fincantieri, nuovo ordine per due navi da crociera per Marella, saranno consegnate fra 2030 e 2032. 70 anni dalla nascita del FRIE, a Udine il punto sul sostegno finanziario alle imprese. Le implicazioni sociali ed etiche dell'intelligenza artificiale, a Trieste istituito un insegnamento universitario. Il percorso per le adozioni internazionali dopo la recente sentenza della Consulta, il nostro approfondimento. Sport calcio, l'Udinese ha spaventato l'Inter nel basket, tripletta delle regionali, ora la volata finale della stagione regolare. 12:31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Lorenzo Gerlinzoni. In apertura ai temi dell'economia e del welfare, la Regione ha presentato poco fa il quadro complessivo delle misure per la famiglia e per il diritto allo studio. Il contributo complessivo è quadruplicato negli ultimi anni. Ascoltiamo. In una delle regioni più anziane d'Italia cresce in maniera significativa l'aiuto e sostegno alle famiglie. Se nel 2018 la regione Friuli Venezia Giulia spendeva 25 milioni di euro, oggi ne spende 96,2 milioni di euro. Misure a favore, se non di tutti, di moltissimi, visto che la soglia di ISEE si è alzata con l'obiettivo di includere più persone. Da 30.000 euro di ISEE si è passati a 35.000 euro. Risultato, dice l'assessore all'istruzione Alessia Rosolen, cresce la platea di beneficiari che hanno molti strumenti a disposizione, dalla carta famiglia alla dote famiglia, dalla della retta del nido al contributo per la previdenza complementare dei figli e molto altro. C'è una novità quest'anno e arriva per le coppie più giovani. Anche in questo caso uno stimolo, se così si può dire, a metter su famiglia. Noi siamo con Maria Pia Turinetti, direttore del Servizio Coordinamento Politiche per la Famiglia. Che strumento è, a chi è rivolto? Allora, si tratta di una misura di aiuto a tutte le giovani coppie che decidono di formare una nuova famiglia, quindi o hanno un matrimonio oppure formano una famiglia anagrafica, e per aiutarli proprio nell'avvio, diciamo, della loro vita, del loro progetto di vita in comune. Quindi un prestito. E in la misura funziona così: c'è una prima fase nella quale le coppie hanno accesso ad un prestito agevolato presso gli istituti di credito che hanno fatto una convenzione con la regione. Fino a 30.000 euro? Il prestito fino a 30.000 euro per un massimo di 5 anni. Se si ha un figlio? Se nell'arco di questi 5 anni la coppia fa un figlio, potrà chiedere un contributo per abbattere questo prestito fino a un massimo di 15.000 euro. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo ai temi dell'economia. Nuova commessa per Fincantieri, che progetterà e costruirà due navi da crociera destinate al brand Marella Cruises. L'ordinativo, il cui valore economico viene descritto come molto importante ma non ancora definito nel dettaglio, nasce da un accordo siglato dalla stessa Fincantieri col gruppo tedesco TUI AG, proprietario del brand Marella Cruises. La consegna delle due unità navali è prevista per il 2030 e per il 2032. Non è chiaro però se la loro realizzazione avverrà presso i cantieri navali di Monfalcone. Le navi saranno progettate su misura per il mercato britannico e realizzate con materiali di pregio, senza rinunciare al forte orientamento verso la sostenibilità ambientale. L'intesa, si legge in una nota stampa, segna l'inizio di una nuova collaborazione tra Marella Cruises e Fincantieri, che arricchisce così il proprio portafoglio clienti con un nuovo marchio nel settore croceristico. Utile netto per oltre 33 milioni di euro, con un aumento del 42%, EBIT da 110 milioni più 19% e un bonus straordinario di 1 milione di euro per i dipendenti. Questi i principali risultati del progetto di bilancio della Illy Caffè, approvati dal consiglio di amministrazione del gruppo. L'azienda parla di risultati record nel 2024. I dati sono in crescita in tutti i principali mercati e canali, con redditività in aumento a doppia cifra più 19% per il terzo anno consecutivo e ricavi consolidati a 630 milioni. In corso a Udine gli stati generali della finanza agevolata, organizzati dalla regione in collaborazione con Tea Group, il Forum Ambrosetti a Palazzo Belgrado. Si parla di sostegno finanziario alle imprese in concomitanza con i 70 anni dalla nascita del FRIE, il fondo di rotazione per iniziative economiche, ma anche del possibile impatto dei nuovi dazi degli Stati Uniti. Più del 12% dell'export manifatturiero della regione è diretto verso gli Stati Uniti. L'imposizione dei nuovi dazi previsti dal 2 aprile crea molta incertezza e la necessità di contrastarla con strumenti adeguati. Il Friuli Venezia Giulia è al terzo posto in Italia per peso sull'export sul PIL, ovvero il 47,5%, 14 punti percentuali in più della media italiana. L'assessore alle attività produttive e al turismo, Sergio Emidiobini. Troppi anni siamo stati ad osservare un mercato che è cambiato significativamente, vanno riscritte le regole del gioco. Se da una parte si dice American first, l'Europa dovrebbe dire economy first. Lo studio Ambrosetti ha commissionato un dossier su come le politiche protezionistiche annunciate da Trump potrebbero impattare sull'economia regionale. Lorenzo Tavazzi, responsabile area scenari e intelligence TEA Group. Noi abbiamo simulato un extra costo compreso tra i 260 e gli oltre 550 milioni di euro. Speriamo di non vederlo. Abbiamo necessità di sostenere in tutti i modi possibili la crescita delle imprese e la loro internazionalizzazione. In questo scenario l'accesso al credito è un fattore strategico, con la regione che si posiziona tra quelle più basse per il costo del credito alle imprese. Attraverso Confidi e Finanza è possibile ridurre il tasso. Quella agevolata del FRIE si attesta sull'1,3%. Alessandro Darè, presidente del Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche. Tenete presente che nel 2024 abbiamo fatto quasi il record, siamo oltre 260 milioni di concessioni, di cui una buonissima parte proprio di liquidità. E quindi lo strumento si mantiene vivo e fondamentale per l'economia e lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. Udine, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. In regione nel pomeriggio la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. L'esponente del governo sarà alle 17 in visita al CRO di Aviano e alle 19 interverrà a Pordenone a un incontro elettorale al Caffè Municipio. Bernini arriva a pochi giorni dall'approvazione della riforma di medicina che prevede tra l'altro la selezione degli iscritti rimandata al secondo semestre. All'Università di Trieste è stata presentata poco fa la nuova cattedra in intelligenza artificiale responsabile e sostenibile che sarà attivata dal prossimo anno accademico. L'insegnamento è frutto di un accordo tra l'Ateneo Giuliano e il gruppo Generali e la cattedra è assegnata alla professoressa Teresa Scantamburlo che proviene dall'Università Ca' Foscari di Venezia dove teneva il corso in etica digitale. L'Università di Trieste è stata la prima in Italia, lo ricordiamo già nel 2020, ad attivare un corso di laurea in intelligenza artificiale. Il corso presentato oggi, che è inserito invece all'interno della laurea in ingegneria, affronterà le implicazioni sociali ed etiche di questo strumento destinato a rivoluzionare la nostra quotidianità. Sentiamo come dal rettore dell'Ateneo Giuliano, Roberto Di Lenarda. Come tutti gli strumenti di potenza enorme, sono enormi le potenzialità e sono grandi anche i potenziali rischi. Non bisogna avere paura della tecnologia, dobbiamo saperla gestire. L'altro elemento fondamentale è che la quantità di investimenti necessari per fare ricerca di alto livello su questi campi sono enormi. Quindi il rischio grosso è che rimangano in mano a poche aziende straniere. Questo è un rischio che noi dobbiamo evitare di correre. E il fatto che si facciano delle forti partnership pubblico-privato con aziende del territorio è importante anche per questo. Noi abbiamo investito da molti anni nell'ambito del data science, dell'intelligenza artificiale, questo è un altro tassello molto importante perché al di là degli investimenti specifici sulla disciplina ci apre lo sguardo rispetto a un aspetto fondamentale, cioè quello delle modalità di applicazione di questa tecnologia, che è una tecnologia del futuro, con una forte attenzione agli aspetti etici, all'utilizzo responsabile. Sappiamo tutti le preoccupazioni che sono legate anche rispetto all'utilizzo di uno strumento di tale potenza. Credo che dare anche questa parte di formazione e di ricerca ai nostri studenti sia un ulteriore valore aggiunto sia nel prelaurea che nel postlaurea. Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Si concluderà a breve l'intervento di messa in sicurezza della viabilità e lo sghiaiamento funzionale sul lungo lago di Barcis fino al rio Arcola, dove questa mattina ha effettuato un sopralluogo l'assessora regionale alle infrastrutture Cristina Amirante. Oltre 100.000 metri cubi di materiale asportati finora. Si è trattato di un intervento contingibile e urgente, ha dichiarato Amirante, per mettere in sicurezza la strada dopo che a novembre per ben quattro volte si è rischiato di doverla chiudere. In questo modo si assicura ai residenti e alle aziende la possibilità di transitare. Nessun commento invece sulla questione sollevata nei giorni scorsi dal Comitato Valcellina, che l'assessora ha spiegato trattarsi di un'opera commissariale. Vediamo il meteo, il tempo col cielo sereno sulla regione, variabile nel Tarvisiano. Queste le temperature: a Trieste 14 gradi e 5 decimi, 16 gradi a Pordenone, 15 gradi e mezzo a Gorizia, 15 a Udine, 13 gradi e mezzo a Tolmezzo. A Tarvisio 9 gradi e mezzo, 8 gradi a Forni di Sopra, 7 gradi e mezzo sul Biancavallo, a Sappada 5 gradi e mezzo, in quota sullo Zoncolan 0 gradi, sull'Ussari meno 2 gradi, a Lignano, tornando sulla costa, 15 gradi, a Grado 13 gradi e mezzo. E ora le previsioni a cura dell'ARPA. Nel pomeriggio avremo cielo poco nuvoloso, su bassa pianura e costa sarà possibile qualche rovescio, soffierà vento da nord o nord-ovest da sostenuta forte sui monti, in quota vento moderato da nord-est anche sul resto della regione, ma a tratti potrebbe essere sostenuto, specie sulle zone orientali. Parliamo di adozione internazionale di minori il cui percorso sappiamo è spesso complesso e può talvolta durare anni. Ora però una sentenza della Consulta dello scorso 21 marzo apre alla possibilità di adozione anche da parte dei single, senza distinzioni tra uomini e donne. Anche i singoli, non solo le coppie, possono accedere al percorso per le adozioni. È il pronunciamento della Corte Costituzionale, che per il momento vale solo per quelle internazionali. Una platea allargata, dunque, con effetti che si sentono. Al Tribunale per i minorenni di Trieste, cui fa capo la Regione, sono già pervenute diverse richieste. Alessandro Danieli, direttore del Tribunale dei minorenni di Trieste. Adesso prevedo che, come questi giorni ci sono state alcune telefonate in tribunale che hanno chiesto di poter chiedere informazioni in merito alla possibilità di adottare il singolo soggetto o minore, e credo che ci saranno le domande dirette appunto all'adozione del singolo di un minore a livello internazionale. Dal 2018 le domande di adozione avevano registrato un calo. La diminuzione è data da molteplici fattori. Uno, anche perché sicuramente c'è un costo per le coppie da sopportare. Due, perché la gente non ha più voglia di prendere alcuni paesi che adesso sono un po' in situazione precariato, perché una volta la Russia era uno dei paesi meno europei dove si poteva adottare. Adesso si sono spostati tutti verso l'America Latina, Brasile, e dove lì all'interno dei paesi sono un po' chiuso la possibilità di dare in adozione i bambini. Il percorso per l'adozione è complesso e può durare anni. I richiedenti devono avere un profilo adeguato in cui emerga stabilità finanziaria ma anche emotiva, e sono previsti incontri con psicologi e con magistrati, cui poi segue una lunga trafila burocratica con viaggi nei paesi da cui proviene il bambino adottato. Vista la rigidità dei requisiti e delle garanzie richieste nell'interesse del bambino, viene da domandarsi se al momento della decisione verrà privilegiato una coppia più che un singolo. Il professor Giampaolo Dolso, docente di diritto costituzionale a Trieste. La valutazione spetta al giudice, e la Corte Costituzionale stessa, in un passaggio della sentenza, precisa che non è illegittimo dare la preferenza ai coniugi, semplicemente sarà una valutazione che fa, a seconda del caso, il giudice. Sicuramente avremo un'escalation pian pianino che il giudice inizierà a prendere in considerazione anche le domande di adozione internazionale dei singoli, del singolo. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Non tutti però sono d'accordo con la sentenza della Consulta, e il rischio è che venga privilegiato il diritto degli adulti single ad adottare piuttosto che l'interesse preminente del minore ad avere una famiglia adottiva composta da una mamma e da un papà. È il commento tranchant di Frida Tonizzo, presidente dell'associazione ANFA, che assiste le famiglie adottive e affidatarie. Noi non ne sentivamo la necessità, nel senso che allargare la possibilità di adozione alle persone singole quando ci sono già moltissime domande di coppie che hanno magari già anche superato un percorso di preparazione e valutazione da parte dei servizi, non ci sembra che risponda all'interesse preminente del bambino. Il commento a caldo di figli adottivi ormai adulti della nostra associazione, che hanno obiettato: potendo scegliere, io preferirei avere due genitori invece che uno solo, insieme magari eventuali altri fratelli e sorelle. La sentenza della Corte Costituzionale ci sembra che risponda più ad un'ottica che va nella direzione di assecondare il diritto all'adozione da parte degli adulti che non il diritto dei bambini senza famiglia ad essere adottati. Se noi avessimo 500 bambini adottabili e 10 domande, saremmo i primi a dire apriamo alle persone sole, non so se riesco a spiegarmi. Invece in questo momento in cui abbiamo tantissime domande e già decreti di idoneità per l'adozione internazionale di coppie che quindi hanno fatto un iter che li ha ritenuti validi e positivi come futuri genitori adottivi, perché preferire uno invece che due? Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. 28 anteprime nazionali, alcune prime mondiali ed europee, 30 paesi rappresentati fra lungometraggi con alcuni dei film più premiati in assoluto ed esperienze immersive, 2 cineconcerti, 6 cineconcerti, 3 masterclass, 2 retrospettive internazionali, decine di ospiti internazionali, musica, laboratori per ragazzi, il tutto in 5 giorni dal 2 al 6 aprile. In sintesi è il calendario di Pordenone Docs Fest, le voci del documentario, festival di Cinema Zero che si aprirà mercoledì. Viviamo tempi complessi, guerra, riarmo, isolazionismo, il riproporsi di contrapposizioni fra blocchi di stati sono preoccupanti scenari improvvisamente prossimi, dice Riccardo Costantini, curatore del festival. I documentari garantiscono comprensione di molti fenomeni della contemporaneità, per il largo pubblico sono un ottimo strumento non solo di informazione ma anche di dibattito sull'attualità, generatori di confronto e portatori di spunti verso un'evoluzione positiva della società e la presenza degli autori al festival consegna chiavi interpretative uniche grazie alle loro approfondite e partecipi ricerche. Siamo agli spettacoli con la musica al Teatro Verdi di Trieste. Questa sera il grande pianista austriaco Rudolf Buchbinder, straordinario interprete beethoveniano, che sarà ospite della Società dei Concerti per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Nel programma alcune delle più rappresentative sonate di Beethoven, dalla Patetica alla Passionata, passando per quella forse più nota, al Chiaro di Luna. Prima del concerto, alle 19:15, a ridotto del Verdi, l'incontro del pubblico con Buchbinder. A condurlo sarà il direttore artistico della SDC, Marco Secco. Sempre a Trieste, al Miela, giunge al traguardo il progetto di formazione teatrale Il Gabbiano, ideato da Aldo Vivoda e organizzato dal Petit Soleil. Questa sera alle 20:30 andrà in scena lo spettacolo dal testo di Anton Chekhov con le musiche di Davide Coppola e le coreografie di Angela Ressa. Sul palco i 13 attori che hanno preso parte a incontri e laboratori a partire dallo scorso agosto. Ora lo sport con il calcio e la sconfitta dell'Udinese per 2-1 ieri sera sul campo dell'Inter. Dopo un primo tempo da sparring partner, la squadra di Rugnaic ha fatto soffrire la capolista e nel finale ha sfiorato più volte il pareggio. Prossima gara una nuova trasferta, l'anticipo di venerdì sul campo del Genoa. Il brutto e il bello dell'Udinese si fa dominare nel primo tempo dall'Inter, che non trova ostacoli nella difesa friulana. Nerazzurri in gol con Arnautovic e poi con Frattesi, e ancora occasioni per la squadra di Simone Inzaghi che dopo un'ora di gioco rallenta la sua corsa. L'Udinese si accende grazie alla rete di Solé, che fa tutto da solo: recupero palla, dribbling e tiro per essere l'uomo del prossimo mercato e di un'altra grande plusvalenza per il club dei Pozzo. Rugnaic rivede la sua squadra, quella dei 40 punti in 28 giornate. But also with a fantastic goalkeeper, and he kept Inter today. Non abbiamo difeso come dovevamo nel primo tempo, abbiamo concesso transizioni facili. L'Inter poi è una squadra fantastica che sa benissimo come giocare in transizione, e se vai sotto 2-0 è quasi impossibile rimontare. Però all'intervallo ci abbiamo detto: ok, proviamoci, non molliamo, giochiamo con più coraggio e energia, più serenità nella gestione della palla. E poi alla fine l'Inter è una squadra molto forte, grandi giocatori in ogni settore di campo, ma anche un grande portiere che oggi li ha tenuti in vita. L'Inter trema ma non crolla grazie a Sommer, che salva su Luca e nel recupero su Solé. Seconda sconfitta di fila per i friulani senza Tovene. Non un caso, ma sicuramente a San Siro il motivo del KO è un primo tempo da dimenticare. Sentiamo Jaka Biol. Non dobbiamo pensare a questi punti che abbiamo adesso, perché vogliamo fare di più questo anno, vogliamo giocare ogni partita per vincere per 3 punti e sì, anche oggi alla fine abbiamo fatto tutto per portare almeno un punto a casa, non abbiamo riusciti, ma già venerdì è altra partita. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E siamo al basket con la tripletta delle regionali. In A1, trascinata da Valentine, Trieste sbanca Pistoia senza tentennare e ora è a 4 punti dalla vetta in una classifica mai così compressa. Dall'altra parte quella di chi ha progetti societari confusi, budget risicati e giocatori volonterosi che non farebbero la differenza nelle categorie minori, la Pallacanestro Trieste si è trovata non poche volte nella sua storia. Anche per questo a Pistoia, contro una squadra che pare abbandonata al proprio triste destino, gioca una partita seria senza fare sconti, come la legge dello sport chiede. Partenza un po' a rilento, merito anche dell'orgoglio dei ragazzi del coach sloveno O'Korn, poi la partita diventa un tiro a segno dove si vince il premio comunque perché il giostraio è un po' orbo. Così l'accelerata decisiva arriva presto sul finire di primo periodo. 5 punti di fila di Candussi, tripla di McDermott, resistenza pistoiese vinta. Yutov e Valentine dalla distanza nel secondo periodo mettono di fatto la parola fine con il vantaggio che tocca quota 20, anche perché i padroni di casa non segnano praticamente mai. Merito un po' anche della difesa di coach Christian, con Brown capo della banda. Il resto della partita non ha praticamente nulla da dire, a parte Valentine che continua a segnare da 3 e ripaga del prezzo del biglietto con il solito spettacolo. Ruzier si prende un po' di riposo, mette comunque in cascina 8 assist. Così, a parte un vantaggio che si accumula fino a più 29, si segnala solo un piccolo screzio tra coach Christian e Campogrande, con il giocatore messo in campo per 22 secondi nel primo tempo che si rifiuta di rientrare per gli ultimi inutili scampoli di gara. A sorridere invece la classifica, sesto posto a meno 4 dalla vetta, ma sempre 2 soli punti di margine sulla zona playoff. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. In Serie A questa sera i posticipi di Bologna contro la Reggiana e di Milano in trasferta a Napoli. Virtus e Armani hanno dunque la possibilità di agganciare la vetta a quota 34 insieme a Trapani e Brescia. A 32 punti rimane Trento, una delle avversarie di Trieste che di punti ne ha 30 nell'ultima parte della stagione regolare. Prima i biancorossi dovranno però affrontare Napoli in casa e Venezia in trasferta. Nella 2 di basket l'Old Wild West, Udine compie un altro passo verso la promozione battendo al Carnera, la Fortitudo Bologna, Emiliani avanti a metà gara, poi l'accelerazione bianconera. Missione compiuta anche per la Gestecco Cividale a Brindisi. Un altro passo non decisivo verso la promozione in Serie A. L'APU prima domina e poi soffre, ma alla fine vince contro la Fortitudo Bologna. Ora a 5 partite dal gong mantiene 4 punti sulla Rinata Rimini. Se la squadra di Vertemati arriverà con lo stesso vantaggio tra 2 settimane allo scontro diretto al Carnera, sarà match ball. Contro i bolognesi Udine si dimostra forte e solida, e non è poco. Il primo tempo è equilibrato. Ali Begovic, il cui padre Teo è leggenda in quella parte di Bologna, è in missione. Dall'altra parte Caia ricorre a tutta l'esperienza per rimanere in partita. Poi c'è la ripresa di rara bellezza e intensità. I friulani fanno vedere a tutti perché sono primi, difesa ruvida e in attacco ricorso quasi sistematico al tiro da 3 punti. Saranno 48 a fine partita contro i soli 19 da 2. E nonostante Hickey non segni, Udine dilaga. Mirza da Ross e più 9 in un minuto, più 14 a fine quarto quarto con un canestro da 3 ovviamente di Pullazzi. Caia capisce, fuori Fantinelli, miglior playmaker italiano del campionato e squadra grande. E la partita gira improvvisamente nei primi 5 minuti del quarto finale. Aradori, 5 punti di fila e Mian fanno scendere un brivido al Carnera gremito con un 15-0 di controparziale e con la Fortitudo che va avanti. L'Old Wild West può buttare via una chance, ma non lo fa. Da Ross sorpassa 72-70 e sblocca l'attacco. Ambrosin, coltellino svizzero di Vertemati, recupera palla e segna dall'arco il più 5. Sospiro di sollievo che diventa gioia pura quando capitana Libegovic segna il canestro con fallo che vale gioco, partita e incontro. 81-72, 29 punti per la guardia di Moruzzo. Ritorna in zona playoff invece Cividale, corsara a Brindisi con una settimana di tempo per preparare le partite. I ducali sono al livello delle migliori. Nella partita vinta 79-71 in Salento si sono riviste le migliori versioni di Redivo e di Miani e la classifica dice di nuovo quinto posto a 4 turni dalla fine, anche se il margine di errore è ridottissimo. Nel campionato più equilibrato di sempre, tra il terzo e il tredicesimo posto ballano soli 6 punti. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa edizione è stata realizzata da Lorenzo Ghellinzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Viola Romanese e Marco Ferrito, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. 12:54 in punto, la prossima edizione del GR regionale alle 15. Grazie per averci seguito, ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.